140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Sveglio Fantasma, esce il terzo album dei Piccoli Animali Senza Espressione. Testi densi, suoni anni 80, tutto da scoprire. Ciao, sono Edoardo, sono il cantante dei Piccoli Animali Senza Espressione. Abbiamo scelto questo nome perché il nostro vecchio paroliere era un amante di uno scrittore americano, David Foster Wallace, e questo è il nome praticamente del racconto. Proprio Piccoli Animali Senza Espressione nella raccolta La ragazza dai capelli strani. Quando siete nati e come siete nati? Ciao, io sono Andrea Fusario, il bassista. Siamo nati nel 2009, io già conoscevo Edoardo, anche se non avevo mai fatto niente, diciamo, di artistico, non avevo avuto ancora l'occasione con lui. E l'ho contattato, lui si è dimostrato subito molto contento di intraprendere questo viaggio musicale, e poi tramite un'amicizia comune abbiamo completato dal punto di vista musicale il gruppo con il chitarrista che è qui accanto a me, che è Filippo Trombi. Ciao, così vi saluto. Ci sono molte citazioni, cioè i testi sono molto stratificati. Ho visto che siete stati accostati più volte a Franco Battiato, e come musica qualcuno ha tirato fuori La Cruz, qualcuno ha tirato fuori Depeche Mode. Non è bello fare paragoni, ma così capiamo in che atmosfere vi infilano. Sì. Allora, è vero che, come diceva Filippo, cerchiamo di essere fruibili a più persone, ovviamente, però abbiamo un nostro background musicale, ovviamente, e per il discorso dei Depeche Mode, sfortunatamente per gli altri, è colpa mia, nel senso che io sono uno strafanatico dei Depeche. Vedi, allora non è così sbagliato. Non è così sbagliato, no. E tra l'altro sono anche un fanatico di Battiato, ma per cui se ci hanno accostati a questi due grandissimi nomi, insomma, va più che bene. Sia chiaro, a noi ci fa piacere. Certo, sì, sì. Diciamo un onore. Diciamo, sì, sì, diciamo che il nostro vuole essere un pop elettronico fondamentalmente, anche perché le basi ritmiche che ci sono in Sveglio Fantasma sono tutte elettroniche, però con dei testi appunto un po' più cantautoriali, quindi non appunto come poteva essere Battiato, un po' alla ricerca, insomma. E anche Sveglio Fantasma è fondamentalmente, tutto l'album diventa un viaggio che noi abbiamo percorso per cercare qualcosa che può essere trovato, come non può essere trovato, però può essere trovato all'esterno oppure all'interno di noi. Quindi abbiamo cercato di fare un percorso durante tutto l'album per riprendere un po' il nostro sé. Sempre pallida, quando tra canali, calli, nei campielli mi dicevi ora cercami questa parte lagunare che c'è dentro me, mi prega. Ma gli occhi tuoi son tondi, sgranati grigi e bagnati. Sì, avrei voluto sapere dove sei nata della tua vita. Però adesso anche ma penso soprattutto ai gruppi indie del momento, sono andati tutti a pescare in quel repertorio e in quelle sonorità, quelli che vanno tanto di moda adesso tra i 20-25 anni, trentenni, stanno saccheggiando ancora piene mani, quindi avevano ragione quelli degli anni 80. Anche noi la pensiamo così, un po' sì. E ci auguriamo che questo continui a essere vero per molto, che sia solo l'inizio appunto, e quindi questo viaggio possa continuare proprio con questa linea, con questa filosofia, con questa sonorità. Secondo me è un elemento distintivo, il saccheggio è vero che c'è, un forte elemento di distinzione, secondo me, anche se non è l'unico, è proprio nei testi, che a questo proposito devo, ovviamente, anche se sembra un atto dovuto da parte mia, però devo riconoscere che sono si distinguono in modo particolare perché c'è una particolare attenzione non solo alla metrica, ma anche alle liriche proprio. Sono testi c'è che poesia, hanno, c'è la cosmogonia, ci sono le scienze. Tra l'altro l'autrice dei testi è mia moglie. L'autrice dei testi è parte del gruppo. Certo. È anche nella formazione. Che saluto, che si chiama Annalisa Boccardi, che oggi non può essere qua con noi. Altrimenti l'avremmo interrogata senza altrimenti fine. L'avreste interrogata anche più, insomma, giustamente. Viaggi, l'Oriente, l'Occidente, tante immagini, però alla fine il mare è quello di casa, quello che si vede nell'album, nel video. Alla fine il mare è quello di casa, però. Sì, alla fine il mare è quello di casa, anche se ovviamente noi siamo un trio un po' particolare, nel senso che siamo tre di Livorno e uno è di Pisa. E questa diatriba come abbiamo fatto? È molto dura, ve lo garantisco. Cioè, è proprio quasi contro natura sta Penso cosa. Che sia il primo esperimento di Pisorno. Sì, Pisorno, la famosa Cinecittà toscana, quell'esperimento fallito. E quella spiaggia lì è esattamente il confine che c'è tra la provincia di Pisa e la provincia di Livorno, che si chiama Calambrone. È una zona proprio a confine tra Pisa e Livorno dal punto di vista del mare. Quindi si è detto, ma perché non fare... C'è una no-fly zone. Esatto, una no-fly zone. Qui è tutto ammesso. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con i piccoli animali senza espressione. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter, @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.